Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Ben ritrovati ad Assemblea On Air, il programma che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata, la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'organizzazione delle prime tappe del Tour de France nel 2024, la situazione carceraria nelle strutture presenti sul territorio regionale e alcuni dei question time presentati in aula dai consiglieri in materia di lavoro, imprese, territorio e sanità. Ma cominciamo con l'evento ciclistico di risonanza mondiale che coinvolgerà l'Emilia-Romagna nel 2024. Per la prima volta in 101 anni, la partenza del Tour de France 2024 sarà in Italia e percorrerà ben 3 tappe lungo le strade dell'Emilia-Romagna. Attesi oltre 2 milioni di visitatori per un indotto che per la regione potrebbe superare i 30 milioni di euro. L'Assemblea Legislativa ha approvato a larga maggioranza la legge che autorizza la regione Emilia-Romagna ad ospitare Le Grand Prix del Tour de France 2024. Il Tour de France è il terzo evento più seguito al mondo, ha ricordato in aula il presidente della giunta Stefano Bonaccini. Un evento popolare prima che sportivo e l'Emilia-Romagna avrà una visibilità a livello planetario. Gli occhi puntati sui territori emiliano-romagnoli attraversati dal tour saranno anche un'occasione per ribadire l'importanza che la regione, prima in Italia per chilometri di piste ciclabili, attribuisce al ciclismo e alla mobilità sostenibile. Sentiamo il relatore di maggioranza della legge Federico Amico di Emilia Romagna Coraggiosa. Si tratta di una legge molto semplice dal punto di vista della sua scrittura, molto invece importante per i riflessi che questo ha, sia dal punto di vista storico, la tappa del Tour de France e la partenza che passa dall'Emilia Romagna, così come tutto quello che è il mondo culturalmente attivo attorno al ciclismo, che potrà essere finalmente valorizzato sia dal punto di vista produttivo per gli artigiani che dal punto di vista appunto della mobilità sostenibile. Il tour si svolgerà nei mesi di giugno e luglio 2024, con la prima tappa di avvio da Firenze e arrivo a Rimini. La seconda tappa sarà da Cesenatico a Bologna e la terza da Piacenza a Torino. Ecco il commento del relatore di minoranza Andrea Liverani della Lega. Il Tour de France sarà sicuramente una bella cartolina per la nostra regione Emilia-Romagna. Abbiamo votato in modo favorevole a questa legge perché crediamo che per il mondo del ciclismo sia un buon esempio, soprattutto all'avviamento dei giovani e far capire che il ciclismo è una cosa molto importante per tutta la nostra regione Emilia-Romagna. Voto di astensione da Fratelli d'Italia. La capogruppo Marta Evangelisti ha ribadito l'importanza dell'evento e delle sue ricadute, ma ha chiesto approfondimenti sugli aspetti organizzativi e ha espresso la necessità di vigilare sui costi perché, ha detto, saranno impiegate risorse importanti. E ora alcuni dei question time presentati in aula nell'ultima seduta di consiglio. Marco Fabbri e Marcella Zappaterra del Partito Democratico hanno richiamato l'attenzione della Giunta sulle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, colpite dagli eccezionali eventi meteo verificatisi tra il 22 novembre e il 5 dicembre del 2022 nelle province di Ferrara, Forlì Cesena e Ravenna. La richiesta è quella di riconoscere anche a queste realtà indennizzi per il ristoro dei danni subiti, al pari di quanto già disposto dopo la dichiarazione dello stato di emergenza per finanziare gli interventi nel settore pubblico, ai privati e alle attività produttive danneggiate. Sentiamo Fabbri. Siamo soddisfatti del riscontro del sottosegretario che si è impegnato anche nei confronti del governo per sollecitare gli indennizzi anche per la pesca e l'acquacoltura. Io credo che anche se sono due canali di finanziamento separati, abbiano la stessa dignità delle altre imprese che sono state colpite duramente sulla costa durante gli eventi di novembre e dicembre. Quindi il governo dovrà implementare questo fondo, speriamo anche tempestivamente. Dalle imprese al lavoro. Riguarda le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici del settore turistico, l'interrogazione a risposta immediata di Silvia Zamboni di Europa Verde. In prossimità dell'avvio della nuova stagione, con previsioni molto positive per l'Emilia-Romagna, la consigliera ha chiesto garanzie sul rispetto dei contratti di lavoro del comparto. Ecco il commento di Zamboni. Bisogna monitorare che sui luoghi di lavoro vengano rispettate le condizioni contrattuali. Purtroppo sono emersi dei casi invece di lavoro nero, dei quali nemmeno gli interessati erano al corrente, e quindi abbiamo chiesto alla Giunta di istituire un tavolo permanente di lavoro sul turismo nell'ambito del patto lavoro clima. E l'altra richiesta era di aumentare le ispezioni sui luoghi di lavoro. riguarda la sanità, il question time di Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle, che ha interrogato la Giunta sulle misure da adottare per far fronte alle criticità gestionali dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, con particolare riguardo alla carenza di personale. Sentiamola. La risposta dell'assessore Donini non è stata convincente, perché la direzione ha negato le istanze portate avanti dal personale sanitario. Dopodiché c'è un tema più generale di tutela della sanità pubblica. Purtroppo le scelte del governo ci stanno portando sempre di più verso il privato. Questa è una battaglia che dobbiamo fare tutti insieme a tutela appunto della sanità pubblica della nostra regione. Infine, in una interpellanza discussa in aula, Valentina Stragliati e Matteo Rancan della Lega hanno chiesto notizie sul progetto di ristrutturazione dell'ospedale militare di Piacenza e i relativi fondi, così da renderlo sede definitiva del corso di laurea magistrale in Medicine and Surgery dell'Università di Parma. Sentiamo Stragliati. Non sono soddisfatta, in quanto in risposta alla mia interpellanza l'assessore Donini non ha rivendicato la possibilità di mettere a disposizione risorse del bilancio regionale per quanto attiene l'ex ospedale militare di Piacenza per il corso di laurea in medicina e chirurgia, ma ha espresso la volontà di reperire fondi ministeriali tramite gli FSC. Passiamo a un altro argomento. Emergenza carceri in Emilia-Romagna. Il dato presentato dal garante dei detenuti, Roberto Cavalieri, parla del 114% in più di detenuti rispetto alla capienza massima. Nella relazione annuale sulle sue attività, illustrata nel corso della Commissione Parità e Diritti, presieduta da Federico Amico, sono stati resi noti gli ultimi numeri. In Emilia-Romagna ci sono in tutto 3.339 detenuti, il 48% sono stranieri e il più della metà di loro proviene dai paesi del Maghreb. Il 4% sono donne e tra queste, 4 sono recluse insieme ai figli minori. Il 35% delle persone detenute sconta pene che permetterebbero di accedere anche a misure alternative. Sono 190 invece gli ergastolani, il 70% dei quali detenuti nel carcere ad alta sicurezza di Parma, strutturato anche per ospitare detenuti al 41 bis. Nel corso del 2022, Cavalieri ha ricevuto oltre 400 segnalazioni di richiesta di intervento e ha visitato numerose strutture carcerarie, a partire da quella di Castelfranco Emilia. Sentiamo Cavalieri. Emergono delle criticità relativamente alle risposte molto tardive, comunque con tempi molto lunghi da parte della magistratura di sorveglianza, criticità rispetto ai servizi, all'erogazione di servizi sanitari, di servizi sociali, di welfare e anche di possibilità di intraprendere percorsi di autonomia di lavoro all'interno nel corso della detenzione. Al problema del sovraffollamento si aggiunge anche l'aumento dei casi di aggressione dei detenuti verso gli agenti di polizia, i suicidi e l'abuso di farmaci. Importante per la consigliera del PD Marilena Pillati il lavoro sul territorio. Abbiamo avuto modo di cogliere quali sono gli elementi di criticità all'interno di un sistema, quello della Regione Emilia-Romagna, che vede comunque un grande impegno da parte della Regione, del sistema degli enti locali per cercare di migliorare la qualità della vita delle persone. Sul tema è intervenuto anche Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d'Italia. Anche la Regione può fare del suo e può cercare di migliorare la situazione. Noi questo lo auspichiamo in modo deciso e soprattutto occorre tutelare coloro che lavorano nelle carceri dalle continue aggressioni che subiscono. E ora un'iniziativa per favorire la presenza delle donne nei consigli di amministrazione di imprese e società. Si tratta di Women on Board 2023, un percorso di formazione che si rivolge principalmente alle donne a livello interregionale per contribuire al confronto sulle informazioni necessarie per accedere a posizioni di responsabilità nelle organizzazioni pubbliche e private. Il progetto, ideato nel 2022 da Manager Italia e Federmanager insieme all'Associazione Italiana per la direzione del personale, da quest'anno coinvolge la consigliera di parità della Regione Emilia-Romagna e vede la partnership degli ordini degli avvocati, dei commercialisti e dei consulenti del lavoro dell'Emilia-Romagna. Il 9 maggio ricorre la Festa dell'Europa. Nell'occasione, in Assemblea Legislativa, si terrà l'annuale sessione europea, una speciale seduta del Consiglio che si chiuderà con l'approvazione di una risoluzione contenente le osservazioni sul programma di lavoro 2023 della Commissione europea.